piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Oggi sono qui per farvi il back to school outfit, come avrete letto dal titolo. Vi propongo 3 outfit per il primo giorno di scuola. Questo è il primo outfit, composto dalla maglietta di Topolino di Subdued, i jeans di H&M di questo colore bellissimo e le scarpe, le classiche Superstar nere e bianche dell'Adidas. Secondo outfit ho la maglietta rosa di Abercrombie & Fitch, i pantaloni che dal bianco diventano rosa di Piazza Italia e le scarpe sono le Converse basse fucsia con la doppia linguetta. Ora che siamo tutti più leggeri, con la prostata polverizzata, affrontiamo il tema del giorno. È un tema che più volte fu affrontato da varie persone, ma fu sempre ricacciato comunque dall'obbrobrio dell'opinione pubblica. Il grembiule a scuola. Avete sentito? Questo era un orrendo video di una ragazzina che mostrava l'outfit per andare a scuola. Avete sentito? Sciorinava i suoi vestiti griffati sul suo lettuccio e già pregustava la gioia dello schiatto delle compagne più povere che, andando a scuola con vestitini comprati a Lupin, poverine, vedono questa vestita bene e avranno dei problemi, dei traumi per tutta la vita, per non parlare dei suoi compagnucci di scuola. Come cresceranno? Matureranno? Passeranno l'adolescenza? L'età matura? 40 anni? 50 anni? 60 anni? Tutti polverizzati nella prostata pensando a quanto erano stati messi a confronto con questa ragazzina sfacciata. Beh, qualcuno ogni tanto dice: ma perché non rimettiamo l'uso del grembiule a scuola? Così non c'è più questo problema. Ricchi e poveri tutti uguali, colorati e bianchi tutti uguali, non si vedrà più questa sorta di divario economico e sociale tra i bambini. Avranno tutti il loro bravo grembiulino, penseranno ad andare a scuola, non ci saranno gli atti di bullismo, le ostentazioni di snobismo, non ci sarà nulla di tutto questo. Lo disse una volta la Gelmini quando fu ministro dell'istruzione, naturalmente era la Gelmini, tutti la presero assolutamente contro, avversa, dicendo è una norma retrograda. Qualcuno fece anche riferimento al regime fascista, dice al tempo del fascismo tutti avevano i grembiulini, ma non è vero, perché anche nel libro Cuore si parlava del Rico che vedeva tutte le ragazze, le amiche della sorella che uscivano dal liceo torinese con i loro grembiuli svolazzanti, faceva una bellissima metafora, pensava che fossero dei gabbiani. Adesso non mi ricordo bene il libro Cuore. Beh, 800 24 00 24, voi che ne dite? Adesso vi particolareggio esattamente chi ha fatto la proposta e in che termini, ma tornereste a mettere il grembiule a scuola ai vostri figli? Il mio era nero con il fiocco blu, era divertente, perché le femmine avevano bianco col fiocco rosso e dietro la schiena delle femmine allora avevo ancora il cannello con l'inchiostro, per non fare dei disegni osceni bellissimi. 800 24 00 24, grembiule a scuola, grembiule nella vita. Il grembiulino riserva da, a me fa piacere, infatti io l'ho sempre fatto mettere ai bambini anche a casa pure di preservarli dallo sporco. Si rendono tutte le persone uguali, no? E invece così anche tra i bambini, anche da cominciare dalle medie, tutti dicono, non so, ah tu hai quella cosa firmata e così comincia la moda già e quindi l'esclusione di determinate persone. Secondo me è giusto comunque la divisa. Forse il grembiulino magari non tutti lo accettano, una bella divisa seria, sì, tipo inglese, sì. Penso che quando ognuno di noi va a lavorare ha un decoro, no? Ogni epoca ha la sua moda. Per cui io preferisco sempre un certo ordine a scuola, non stravaganti. 800 24 00 24. Vedete, dall'idea di reintrodurre nuovamente il grembiule a scuola si amplia e si determina il discrimine sociale, ideologico tra gli italiani. Le signore che dicono rivorrei il grembiule sono le signore, naturalmente, richiamano l'idea all'ordine, alla disciplina, a tempi in cui tutti hanno la loro divisa, sono inquadrati come dei soldatini. Quelli che in realtà sono per la disorganizzazione, per la libertà, per l'espressione libera del vestirsi, come no, ma che vogliamo, irregimentare i ragazzini come se fossero dei soldatini, ognuno si vesta come vuole. Però questa volta a parlare sono dei pediatri. Oddio, il sondaggio è fatto ripreso dal giornale questa mattina, proprio perché c'avevamo poca fantasia, perché sapete, polverizza oggi, polverizza domani, alla fine ti si polverizza anche la fantasia, però è presa da una ricerca fatta dall'Università Ludes di Malta. A Malta l'Università Ludes ha fatto una inchiesta per quanto vogliano ancora reintrodurre il grembiulino. È venuto fuori che i pediatri sono d'accordo. Perché? Perché dice che il grembiule in realtà evita il trasporto dei germi da scuola a casa, da casa a scuola, quindi si prendono meno malattie, meno raffreddori, meno pertossi, morbilli e via dicendo. Questi naturalmente non dovrebbero esserci, perché dovrebbero essere vaccinati, ma nel caso comunque è più igienico. Quindi è una condizione igienica, una sorta di scafandro che salvaguarda i bambini da tutte le infezioni. Quindi metteteglielo, perché è come mettergli dentro un grande preservativo colorato con il fiocco, è bello, in modo che stiano più sani sia a scuola che a casa. Ma però esiste la vecchia idea che il grembiulino sia sinonimo di qualcosa di vecchio, di antico. Voi come la pensate? 800240024. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Senta, io volevo semplicemente dire che sono assolutamente d'accordo con il ripristino del grembiule, ma non tanto perché per quanto riguarda le malattie, perché questa mi sembra una stupidaggine, sinceramente. Beh, lo dicono i pediatri a Malta, che ne so io, poi sì, non ho strumenti scientifici per valutare la portata di questa osservazione. Al lume di naso direi che è una stupidaggine, ma più che altro perché credo... Sì, in effetti un po' mi sembra una cazzata anche a me, però di qualcosa dobbiamo parlare. No, assolutamente no, per carità. No, però mi sembra un modo per recuperare anche quel rispetto verso l'istituzione maltrattata dal governo, dalle riforme, che è la scuola, perché poi dopo ci lamentiamo perché non c'è più rispetto per le... Che si drogano, queste cose qua, è certo. Ma no, ma la droga, no, vabbè, ma la droga non credo che sia il grembiule o il rispetto per l'istituzione che la determina, però... Alessandro, fermo un attimo, però io voglio entrare e scavare nella sua autobiografia. Lei portava grembiule? Sì, assolutamente. Oh, lei di che generazione è? Che anno è nato? 82, 1982. Ah beh, quindi nell'82 ancora sportava il grembiule, pensavo fosse stato debellato dagli anni 70, dalle rivoluzioni. Ah, no. Di che colore era il suo grembiule? Assolutamente nero. E il fiocco? Azzurro. Ah beh, uguale, identico. Io ho fatto una scuola rurale nel 59, il grembiule nero e il fiocco azzurro, quindi una tradizione ininterrotta. Si è sentito mai vessato dalle istituzioni? No, non c'era alternativo grembiule, niente. Se andavi a scuola senza grembiule tornavi a casa. Sì, non ti facevano però voglio dire, non, cioè eri visto come un disgraziato, additato dai compagni, non ha grembiule, vergogna. Ti sentivi nudo a far vedere i vestiti. Il contrario di oggi, no? Il contrario di oggi. Oggi è il contrario. Oggi assolutamente. Io non credo che tutto questo lassismo, ripeto, io poi sono molto liberale, liberista, nel senso che libertino, non mi importa se tu vai con i pantaloni strappati. Ma libertino, quello quando cresce, quando è piccolo ancora non può essere libertino. No, quando è piccolo no, però ecco appunto, voglio dire, se si parla poi anche di discriminazioni... cioè, non ci lamentiamo perché tutto nasce dal fatto, hai sentito la bambina in apertura che sciorinava tutti i suoi vestitini, dice io metto questo, quell'altro, con tutte le scarpine, già pronta a far schiattare le compagne di invidia, e quello non ce l'ha messo. Allora Alessandro, facciamo il solito sondaggio, quindi lei dice grembiule sì, così cominciamo a vedere. Sì, ma non ci lamentiamo, se non mettiamo dei paletti all'inizio poi non ci lamentiamo. Se il paletto va messo subito, sennò quando uno aspetta che il vampiro è cresciuto e poi già ti dissangua, quindi il paletto subito. Bene, Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Grembiule sì o grembiule no? Grembiule sì, assolutamente. Io avevo il grembiule nero con il fiocco bianco. Ma no, il nero è maschio, lei c'aveva bianco, scusa, una femmina lei. No, io andavo alle scuole dalle suore, io avevo Ah, nero, dalle suore tutto nero. Era bianco. Era bianco. E maschi? Era bianco. I maschi non c'erano. Nero, come no, sì. C'erano, il fiocco era blu, ma il grembiule era nero per tutti. E ricordo alle medie, quando ormai non ero più dalle suore, il grembiule era sempre scuro, ma le prime ribellioni era proprio di non metterlo più il grembiule, lo si acciaffava tutto sotto al banco e lo si metteva tutto stropicciato. Io mi ricordo però... che non doveva fuoriuscire dal grembiule il lembo della gonna o del vestito per le donne. Doveva essere coperto tutto, si diceva ai miei tempi. No? E le suore che dicevano metti il grembiule, così. Sì, sì, assolutamente. Te lo allaccio ma io, non che non l'hai allacciato bene, fammi vedere se sotto c'è qualcosa. No, avevo delle suorine molto gentili, molto carine. Però, e volevo dire che magari invece di averlo nero, che è un po' cupo, si potrebbe fare colorati, rosa, azzurri, gialli, insomma graziosi. Cioè rosa per le femmine, azzurri per i maschi. Ma no, ma a scelta. Faccio una proposta, siamo qui. Sì, ecco, allora, di colori carini, giallo chiaro piuttosto che rosso, piuttosto che azzurro, piuttosto che verde, in modo che siano comunque colorati, ma il concetto della divisa è educativo ed è utile. Sì, però nero, perché sta, nero e bianco perché stanno bene con tutto, la bambina ha capelli rossi, il bambino biondo, il bambino nero, erano uguali, hai capito? Per questo sì, era. Poi deve essere una sorta anche di cilicio, di mortificazione, diciamo la verità, non doveva dare allegria, doveva dare il rigore che si andasse a scuola, questo era fatto. Però questo non serve, un rigore triste non serve, mentre il concetto della divisa, ma una divisa che non sia... ma il rigore allegro è quelli triste. Che si dà le frustate per divertirsi, è un'altra cosa, il rigore deve essere triste. No, non sono d'accordo, sinceramente io penso che la divisa, se è colorata e non mortificante, va bene lo stesso, perché comunque è educativa, perché per quello che diceva l'ascoltatore di prima, e poi è utile per le mamme che non devono mettere vestiti nuovi perfetti tutte le mattine. Certo, i bambini non si sentono mortificati. Comunque, benissimo, già due ascoltatori, due sì. Con una venatura, se devo interpretare il dato statistico rigoroso che sta raccogliendo il professor Chiappini, noto statista, statistico anzi, e il professor Intonti, devo dire che si nota, ma non lo dico, lo dico con il distacco necessario di un conduttore radiofonico, un certa nostalgia conservatrice. Il grembiule sì, perché è sintomo di ordine, di disciplina e di rigore, ma sta bene così, andiamo avanti. Antonio. Sì, buongiorno. Grembiule sì o grembiule no? Io sono per il grembiule sì. Perfetto, tutti d'accordo. Sono un insegnante di scuola primaria, quindi l'utilizzo del grembiule lo vedo quotidianamente e ne vedo quotidianamente l'utilità, non solo per un discorso di ordine, se la scuola è così un luogo dove si lavora, tra virgolette, dove si pasticcia, si manipolano cose, ci si può tranquillamente sporcare senza così senza avere paura di compromettere, cioè, l'abito le macchie di Didò sui vestitini è brutto, di colori a tempera, queste cose qua. Col grembiule, assolutamente. Ma mi ricordo che mia madre ce n'erano due, uno si lavava e l'altro si rimetteva, c'era sempre uno pulito, erano sì, due almeno, sì. Di solito sì, poi poi vabbè, capita che sono tutti e due sporchi, particolarmente nei mesi di pioggia, nei mesi invernali. Beh, sabato e la domenica si lavano i grembiuli, si stendono in casa sul tempo sifone. Io credo che si possa così scegliere una divisa anche per i gradi superiori delle scuole, magari. Quindi lei lo introdurrebbe anche per le scuole superiori? Sì, magari una tuta più particolare, così con il logo della scuola, in modo da renderlo così accattivante, ma credo che una divisa... Tipo quelle tute che si comprano in ferramenta per dare gli antiparassitari, quelle bianche, quelle che mettono... No, quel genere, una tuta da ginnastica, per intendersi, con il logo della scuola, in modo da essere sia comunque un identificativo per i ragazzi che frequentano lo stesso istituto e anche per renderli uguali. Del resto poi, secondo me, il campo su cui dove emergono le differenze non è quello dell'abbigliamento, ma è altro, dove devono terzo sì. Andiamo avanti, perché sennò non ho sufficiente materiale per il sondaggio. Ho sentito le voci degli ascoltatori per dare un po' corpo all'idea. Il grembiule è una sorta di elemento distintivo, è una sorta di training sin dalla giovane età a sapere che la divisa implica una responsabilità di status. Poi i grembiuli, l'ho detto prima nell'introduzione al giornale radio, si mettono in molte professioni. I fonici della radio, nei primi anni che lavoravo in Rai, avevano un grembiule bianco. Voi immaginate il professor Chiappini o Paolo Corleoni col grembiule bianco, o le colleghe col grembiulino bianco. E però si usava, io mi ricordo, i tecnici entravano nello studio e mettevano il grembiule bianco. Tutte le colfa a casa di mia nonna avevano la gabbanella nera. Fino a oggi provate a mettere a meno che non abitate nei quartieri alti e non abbiate delle signore molto, molto gentili, mettere qualcuno che lavora a casa con voi nei lavori, vi aiuta, mettergli una divisa. Una volta negli uffici le impiegate avevano il grembiule, gli impiegati avevano le mezze maniche. Ecco, rintrodurremo tutti questi baluardi alla lussuria del vestirsi in tutte le professioni, siete d'accordo? 800 24 00 24. Nella nostra scuola in prima e seconda elementare ancora si adoperano. Io, insegnante, non li faccio adoperare perché vedo che sono scomodi per i bambini, però vedo che molti miei colleghi in prima e seconda li continuano ad adoperare. E ora sono favorevole, però ho avuto la fase in cui avevo le figlie all'inizio della scuola media, ero contraria. Chissà, gli anni. Assolutamente favorevole. Suo figlio le indossa? Tutte le mattine, anche la più piccola. Io sono favorevole perché è meglio, perché si conosce che è un bambino di scuola, quindi meglio. 800 24 00 24, dietro comportamenti semplici, banali, indifferenti, si cela una visione della vita. Pasquale, grembiule sì o grembiule no? Sì, buongiorno a tutti. Sì. Salve. Dunque, in riferimento a ciò che stavo ascoltando... Ma sta parlando col megafono, cosa sei, in una piazza? No, sto in viva voce. Ah, bravo, lo sa che non si... Scusami, sto col Bluetooth, forse devo abbassare un po'. Il Bluetooth è il sistema di trasmissione, io sento sempre male. Vabbè, vada avanti, sì o no, tanto è veloce, sì o no? Sì. Grembiule sì. Il grembiule potrebbe andare bene anche oltre alla scuola elementare, anche a quella media ed anche ai superiori, distinguendo il colore del grembiule, perché primo, perché si dà meno lavoro alla mamma che deve lavare quasi ogni giorno gli indumenti dei figlioli, perché sappiamo bene... Altra cosa, domanda Pasquale, scusi, mi serve per riempire la tabella dell'inchiesta statistica che stiamo facendo. Per le mogli che stanno a casa, che non lavorano, grembiule è lo stesso? No, il grembiule si lava una volta... No, non ha capito. Metta caso, lei ha una moglie? Io sì. Sta in casa, casalinga? Casalinga qualche volta mi aiuta perché ho una... Perfetto, allora, le mogli casalinghe, anche loro il grembiule devono mettere, secondo lei? Una domanda. Sì, certo. Mia moglie la mette, lo mette. Grembiule anche per... E di che colore lo mette sua moglie? Lo metto un po' a fantasia perché per dare un po' di vivacità. Almeno in quello, certo, chiaro, mentre pulisce e stura la tazza, un po' di fantasia, il grembiule è colorato. Benissimo, stiamo allargando la nostra inchiesta. Allora, introdurre il grembiule anche per le donne che stanno a casa. Grembiule per le casalinghe. 800 24 00 24. Melog. Oggi sono qui per parlarvi di una giacca da cuoco. Cominciamo col tessuto. Sarebbe opportuno che ci fosse una quantità significativa di cotone, che è più facile da lavare, resiste meglio all'effetto così di un brodo bollente che vi venga versato addosso con un mesto, ovviamente per errore. Questo perché il cotone si impregna con difficoltà, quindi avete qualche istante di tempo per togliervela prima di ustionarvi sotto. Vestiamo guardie giurate e corpi di sicurezza, protezione civile, medici, assistenti e centri estetici, cuochi, camerieri e barman di ogni età. Proponiamo in offerta 29,90 € la divisa cuoco e ti regaliamo la parannanza. 800 24 00 24. Eravamo partiti semplicemente con un'osservazione, un'indagine, un'inchiesta, uno studio fatta dai pediatri di Malta, per cui il grembiule a scuola andrebbe reintrodotto, perché in realtà salve ragazzi dei bacilli. Ci stiamo allargando, abbiamo capito che il campione significativo del nostro pubblico dell'ora del soffritto è per il ripristino del grembiule, decisamente il grembiule è sintomo di ordine, ma stiamo allargando poi questa idea, questo concetto anche all'età adulta. Il primo ascoltatore ha avuto il coraggio di spezzare comunque il muro dell'omertà e dire sì, anche le donne che stanno a casa si mettono il grembiule, magari possono sceglierlo a fiorellini per essere più allegri mentre fanno i lavori in casa. Ma allarghiamo ancora di più, avete sentito? Una serie infinita di categorie professionali mette grembiule, mette comunque una divisa. Guardie giurate, medici, veterinari, autospurgatori, tutti hanno qualcosa. Perché dobbiamo aumentare questa idea che tutti ci mascheriamo rispetto, mascheriamo il nostro desiderio di snobismo, di ostentazione, di differenziazione sociale e non ci mettiamo una bella divisa? Qualcuno sta facendo delle proposte ardite, ma vediamo se in qualche maniera le condividete. Chi dice anche nei luoghi pubblici, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, impiegati e impiegate devono mettere il grembiule. Ma è giusto, scusate, parliamo di privilegi della pubblica amministrazione. Grembiule per le impiegatesse e gabanelle per gli impiegati, gli uomini blu, le donne grigio. Ma c'è chi ancora più ardito dice anche parlamentari. Perché parlamentari no? Sono pieni di privilegi, mettano il grembiule. Rosso bordeaux al Senato e blu alla Camera, sono i colori istituzionali. I parlamentari li riconosce, hanno il grembiule. Molti hanno già il grembiulino, ma non lo vogliono dire, e questi avranno il grembiule. Stefano, buongiorno. Stefano, allora Stefano, grembiule sì o grembiule no? Ma guardi, io le volevo fare una testimonianza. Prima grembiule sì o grembiule no, ci serve per la ricerca. Poi grembiule dopo... sì, grembiule sì, okay. Assolutamente. Una velocissima testimonianza, dal 2009 al 2012 ho fatto l'assessore alla pubblica istruzione in un comune in provincia di Brescia. Sì. Abbiamo fatto un progetto bellissimo con la dirigente scolastica e tutti gli alunni che hanno disegnato il logo della loro scuola, dell'istituto comprensivo, e abbiamo utilizzato questo logo per logo per creare una linea di abbigliamento, una felpa, una tuta, una t-shirt, una polo, che le famiglie volontariamente, senza nessuna obbligatorietà, potevano acquistare, e cui il provento, una parte dei proventi di queste vendite andavano per finanziare i progetti della scuola. Il risultato è stato che quasi tutte le famiglie hanno aderito, quindi senza obbligare nessuno, in realtà la divisa è entrata in circolazione come uso nella scuola, ed in più abbiamo ricavato. Quindi lei conferma Stefano che c'è voglia di divisa in Italia, c'è voglia di divisa, sì, quindi andiamo avanti. Perfetto, no, con un po' di fantasia omologata, uguale per tutti, però ripensare delle divise nuove, inventarsi delle divise. Pino, grembiule sì o grembiule no? Sì, grembiule sì, assolutamente, ma ho notato che non tutti hanno messo l'accento sul fattore educativo del grembiule, certo, ai bambini. Uno è perché ti abitua a determinate regole. Perfetto, Pino, lo allargherebbe anche ad altre categorie di adulti, visto che fa così bene ai bambini. Farebbe bene anche agli adulti mettersi il grembiule ogni tanto? No, per gli adulti no, per un semplice motivo, perché mentre per i bambini è educativo il rispetto delle regole, il rispetto della persona. Gli adulti? Cioè, vada al punto, Pino. Gli adulti dovrebbero già averlo. E se non ce l'hanno, però mettergli il grembiule a chi non ce l'ha. Ma se non ce l'hanno è un obbligo che facciamo, è una forzatura. Beh, infatti si chiama camicia di forza, un grembiule che le mani le legano dietro. Giulia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì. Io assolutamente grembiule sì, ai bambini, non solo le elementari, anche le medie e le sembrere superiori, come supporto. Anche ai licei, ma secondo me il grembiule è un diritto dei bambini, il diritto, certo, di poter andare a scuola senza subire differenze, senza subire confronti. Giulia, allarghiamo perché sennò ci fermiamo soltanto. Il grembiule agli adulti, in quali categorie lo introdurrebbe? Osi. Ma il grembiule agli adulti nelle categorie in cui c'è già, ovvero che serve per la funzione del medico, eccetera. E direi che comunque nella pubblica amministrazione ce lo vedrei bene. Perfetto, gli impiegati, la pubblica amministrazione, uno va al municipio e deve vedere delle persone col grembiule, perché è giusto, li paghiamo noi, devono mettersi il grembiule. Federica. Salve, allora mi sa che sono un po' una voce fuori dal coro. Grembiule no, io sono quindi per no. Il grembiule no. Finalmente no, perché sennò equilibriamo un po'. Finora abbiamo 17,7% di grembiule sì rispetto al campione che abbiamo limitato, però se la estendiamo e spalmiamo il dato sul campione complessivo arriviamo a una cifra bulgara, l'87,2% che vuole il grembiule sì, quindi lei no. No, io sono contraria. Io ho i miei figli che vanno, la piccola fa la materna, usa il grembiule, anche il bambino in quarta elementare utilizza ancora il grembiule. Io sono contraria per, diciamo, vari motivi. Il principale, diciamo, è ideologico, nel senso che a me invece questa idea, cioè mi sembra un'ipocrisia che insegnare l'uguaglianza a scuola debba passare per il grembiule. Lei dice, io fatico per comprare la felpina firmata a mio figlio, è giusto che vedano anche no, gli altri. No, assolutamente no, io non sono di questo, non perché debba esporre niente, però diciamo penso che la scuola debba insegnare certo l'uguaglianza, per carità, ma anche che siamo tutti diversi, che ciascuno può esprimere il suo modo di essere. Ma quello lo esprime il potere d'acquisto della famiglia, di solito, ma l'outfit no, dei bambini. Questo, no. Mi perdoni, ma il mondo è fatto di gente ricca e gente certo, povera. È giusto che lo veda, certo. Peraltro schiattare. Io sono povera, quindi nel senso, secondo me i bambini devono essere abituati a vedere tutto. Devono essere abituati che ci sono bambini ricchi e bambini poveri. I bambini poveri devono guardare con invidia i bambini ricchi e odiare i bambini ricchi. Oppure imparare a gestire le loro emozioni al riguardo. O fregargli la felpina, cioè, la quando vanno a fare essere ginnastica. Essere in grado di dare loro le chiavi. È chiarissimo, però finalmente sta cambiando un po' il trend, sennò veramente è una trasmissione bulgara. Enza, grembiule sì, grembiule no. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì. Io, per me, grembiule sì al 100% e io sono casalinga e uso un grembiule. Com'è il suo grembiule? Com'è il grembiule da casalinga? Con una mucca prato verde. Così dall'idea proprio della nutrizione di tutta la famiglia. Esatto, io al 100%, io usavo il grembiule, i miei figli, asilo, elementari. Se lei potesse avere in mano un potere di legiferare, obbligo di grembiule con mucca tutte le casalinghe, è chiaro. Tutte le casalinghe grembiule con la mucca, Enza, diciamo, ci dà un dato molto importante. Qualcuno ha qualcosa in contrario? Qualcuno pensa che la casalinga, la donna in casa, non debba ostentare felice una mucca, il sintomo, il simbolo del nutrimento, della maternità, dello svaccamento? Perfetto. Maria, buongiorno. Buongiorno, salve Nicoletti. Grembiule sì, grembiule no. Mi sente? Sì, grembiule no, domanda. Ah, grembiule, guardi, io non lo so in realtà, però volevo dare... Incerta? Sì, incerta, assolutamente. Beh, incerta. Una incerti esperienza uno. Personale, io ho due figlie, no? Proprio in età da liceo. Una delle due è stata 3 mesi fuori, lontano, in una scuola lontana di stampo anglosassone, e aveva la divisa obbligatoria. Certo. Era orrificata quando è partita l'idea di doversi mettere la divisa. È tornata e felice. Mi ha detto che era un grande sollievo. Allora grembiule sì, scusi. Stavamo male tutti stavano male. Però eravamo tutti uguali. Uno si quindi mette questa sì. cosa la mattina e basta, e va a scuola. E non ci pensa più, non pensa se abbina, non abbina. E non è un anche di conversazione. Non è, io non ne farei una questione di pulizia. Allora grembiule sì, scusi, mi sembra chiaro. Mi sembra grembiule sì è la sua risposta. Non lo so, non me la sentirei. Vedo che no, lo so, è una decisione. Sono decisioni che fa male prenderle. Fine, come diceva interessante quel signore, quel dirigente dell'istituto comprensivo. In effetti, quando concepiscono delle felpe o delle cose, poi i ragazzi se le mettono le magliette, cioè anche un'appartenenza. Però il bello del grembiule è che lo mette sopra, sotto uno può mettere quello che vuole, ma soprattutto sì, sotto sì. Può essere grasso, magro, brutto, esatto, bello. Siamo tutti, dice, eravamo tutti uguali. E certo, pensi che bello, come in un convento, male. Le suore, mica le vede come sono sotto la tunica, esatto, da suora. Esatto. Vedi questa roba nera tutta e sotto ci può essere qualunque cosa. 800 24 00 24, grembiule sì, grembiule no, è una scelta di vita, è una filosofia esistenziale. Melog. Nora ha 18 mesi e ha scoperto che c'è qualcosa di particolare che può indossare quando vuole dare una mano in cucina: il grembiule. Il grembiule non serve solo a proteggere i vestiti dalle macchie e dagli schizzi, ma aiuta anche a diventare più autonomi. Con il tempo e con la pratica, infatti, Nora imparerà ad indossare il suo semplice grembiule da sola, senza aiuti esterni. Il grembiule funge anche da segnale. Per Nora è il simbolo di un'attività che sta per cominciare, cioè quella del lavoro. 800 24 00 24. Chi si è opposto in veemente contrasto rispetto alle tante proposte che ci sono state negli anni di reintrodurre il grembiule nelle scuole, non teneva conto dell'opinione degli italiani. Gli italiani sono fermamente convinti che il grembiule debba essere reintrodotto non soltanto nelle scuole, ma anche nelle superiori, ma anche nella vita. Avete sentito? Grembiule per le casalinghe, con la mucca stampigliata davanti, per ribadire il ruolo della casalinga. E questa bambina, la piccola Nora, mi sembra che si chiami, a 18 mesi già la mamma gli mette il grembiulino. Perché? Perché si abitui che in cucina deve tenere il grembiule. E si abitui magari che la sua vita sarà in cucina. 800 24 00 24. Voi siete per il grembiule? Guardate che anche YouTube, che è il luogo più avanzato dell'espressione consenso degli italiani, è pieno di persone entusiaste per il grembiule. Ho appena ricevuto in regalo questa borsa di stoffa, siccome ne ho tante, come penso anche voi, ho deciso di trasformarla in che cosa? In un simpatico e veloce grembiulino. Cosa ci vuole? Bastano le forbicine. È una spillatrice. È un po' lunga, ve la dico tutta. Questa è una signora che c'ha casa piena di shopper con le borse che danno ai convegni, le regalano quelle di stoffa con scritta pubblicità. Lei ci fa i grembiulini, l'apre a metà se ne infila in testa, ritaglia il manico sotto, ci fa una cinturina e ci fa un bel grembiulino. Fantastico. E i grembiulini, quante fantasie vi suscitano? Guardate, c'è gente sui grembiulini e tiene insieme i matrimoni. Grembiule sì, grembiule no. Carmine. Buongiorno. Sente? Sì, aspetto la sua risposta. No, io sono assolutamente contrario. Oh, ecco, un altro no. Comincia a risalire, per fortuna. No, per un motivo molto semplice. Mio nipote ha frequentato per qualche mese un istituto privato. C'erano tutti i bambini in divisa. Ma divisa a grembiule o divisa proprio divisa, tipo piccoli soldatini? La divisa tipo piccoli soldatini. Allora, mi chiese... Ma dov'era questo istituto? A Napoli. Ma cos'era? L'Annunziatella, l'Accademia Militare? Che era? No, era un istituto, cioè era una scuola privata. Che però... mettono la divisa? Ma da soldatini come? Con con tutto lo stemma della scuola sopra, impresso sopra. Però un vestito normale con lo stemmino. Sì, sì, un pantalone, una maglia sopra con lo stemma del, però tutti uguali. Ma tutti uguali. E perché è stato negativo per suo nipote? No, il bambino si chiedeva perché dovessero portare tutti la stessa cosa. Perché va a scuola e tutti uguali. No, è perché la risposta di tutti, anche gli insegnanti, è perché siete tutti uguali, siete tutti uguali. E lui ha detto, ma se siamo tutti uguali, perché quello là c'ha la macchina più grande? Perché quello là c'ha la barca? Perché quello... Perché il papà si è dato più da fare, bisogna rispondere, è stato più bravo il papà. Il che significa che dobbiamo abituare i bambini, già da piccoli, al fatto che non siamo tutti uguali, ci sono le differenze, ed è meglio saperlo da piccoli che non avere dei traumi. Quindi deve essere una scuola di vita, quindi lo schiaffo alla miseria deve iniziare sui banchi delle elementari. Esatto. Ah, beh, questo è, diciamo, è il motivo fondamentale su cui si articola il popolo del no. Quindi è giusto che lei l'abbia esposto in maniera così lucida con la sua esperienza personale. Lorenza. Buongiorno. Sì o no? No. Ecco, no, vede, ha tardato un po' a uscire il campione che era contrario, ma adesso è ben deciso. Stanno risalendo i no. No perché, magari? No, per un motivo culturale, né di ricchi né di poveri. Cioè, ogni individuo è un individuo. È un po' come quando da piccolini, è un paragone un po' così su generis, però io non devo uccidere, non devo rubare, perché altrimenti ho una religione che mi manda... Perché piange l'angioletto, perché piange l'angioletto, oppure, è la risposta. Oppure ho lo Stato che mi mette in galera. Invece no. Invece culturalmente io non uccido, non rubo per rispetto. È kantiana questa sua lettera, questa sua lettura, capito? Quindi sopra la testa non deve averci nulla, dentro di lei deve avere una sua legge interiore. Molto chiaro, questa è la lettura della nostra ascoltatrice. Stanno aumentando i no. Alessandra, sì o no? Sì, buongiorno. Sì, io sono per il no, categoricamente no, assolutamente, ecco. Non sono dei soldatini. Il bambini, popolo del no sta avanzando, state ripareggiando, avanti. Niente, non siamo dei soldatini, come diceva la signora di prima, ogni persona ha la propria unicità, non possiamo renderci tutti con la testa china. Quindi nemmeno alla scuola materna? Ma assolutamente no, ma siamo matti. Anche no? Perché sì, la differenza, chi ha il pannolone di marca e chi ha il pannolone comprato ai grandi magazzini. Ma le differenze, Nicoletti, le trovano lo stesso, certo. Anche col grembiule, mica, cioè, non è che uno... C'è chi la fa scioltina che la fa durina, non sono uguali, non capire che anche la natura non omologa le persone. Molto chiaro, Alessandra, no. Andrea, sì o no? Buongiorno, assolutamente no, sono contrario a qualsiasi tipo di divisa, penso che ognuno si debba vestire come vuole e anch'io, come la prima signora che ha detto no, sono povero, per cui mio figlio non deve ostentare niente, ma non mi sembra una forzatura assolutamente. Quindi deve esserci anche l'orgoglio, come si diceva ai miei tempi, le pezze al culo si diceva, anche l'orgoglio delle pezze al culo, no? No, non è tanto per orgoglio, proprio ognuno deve fare quello che gli pare. Tu vuoi mettere non è quello che gli pare, magari suo figlio vorrebbe anche lui pantaloncini firmati e lei non glieli può comprare. Sì, ma io se lui non si vuole mettere il grembiule non se lo mette, se se lo vuole mettere se lo mette. Non deve essere uguale per tutti, cioè io voglio il grembiule perché non mi sporco. Mettitelo, a me non interessa. Non lo vuole. Tanto c'è la mamma a casa che lava con il suo grembiule con la mucca, molto chiaro. Ma sì, Anna. Adesso ci sono le lavatrici, certo, ci c'è qualcuno comunque che mette l'antimacchia, lo mette dentro, li tira fuori, li stende, li stira. Ci vuole sempre qualcuno. La lavatrice non fa tutto il ciclo, ma grazie a Dio c'è a casa chi lo fa. Anna, buongiorno. Buongiorno. Non sono né per il no né per il sì. La seconda incerta. Il grembiule per me è antieconomico. Io non ho comprato vestiti per oltre 7 anni. Ma perché costa tanto il grembiule? No, perché il bambino metteva la divisa la mattina, arrivava a casa, rimaneva con la divisa, il giorno dopo gliela cambiavo e io con 2 divise ci ho fatto 7 anni, logicamente per misura, attenzione. Quindi allora è meglio averlo. Ma i negozi cosa facciamo? Fermiamo tutto? Ecco, perché il grembiule blocca l'economia. Sicuramente non blocca tutta l'economia, ma una bella fetta di negozi. Io le magliette il primo anno le ho date via nuove, il secondo anno non le ho comprate. Giusto, qualcosa per la domenica. Quindi ferma, diciamo, la macchina della produzione. Se tutti mettessero il grembiule, il ragionamento in una radio a vocazione economica è giusta questa riflessione. Poi ma guardate, io rompo un sacco di cose. Se no finisce come nella Cina di Mao Zedong, c'hanno tutti la divisa grigia, per anni non si è venduto un jeans, non si è venduta una maglietta, non si è venduta una gonna, non si è venduto un reggicalzi, niente, tutti divisa grigia, terrificante. Comunque chiaro, ha vinto in maniera prevalente il sì, però con una risalita temporanea del no, se parlasse sentisse per altri 10 minuti, il no e il sì si equivarrebbero. Ci sono due incerti per due ragioni molto serie, di cui quella della signora fermerebbe la macchina dell'economia. Alla prossima.